Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24, ben ritrovati Ivana Di Martino. Ciao, buona domenica a tutti. Allora, l'8 marzo è la festa della donna e oggi giustamente vado in minoranza perché qui con noi la Maratona Italiana Patelli, benvenuta. Grazie, grazie mille per l'invito. Come stai? Domanda di riserva. Andiamo avanti allora Eliana, è una situazione un po' particolare quella in cui ci troviamo ad affrontare e raccontare, perché siamo qui per parlare di corsa, ma tutto il mondo dello sport, come sappiamo, insomma, è un po' in stand by. Tutte le gare, le grandi classiche, insomma, di questo periodo sono state annullate, spostate, vedremo anche nei prossimi giorni con quali modalità. Nel frattempo Eliana, mi viene in mente che anni fa invece, quando ancora io correvo senza i miei acciacchi ripetuti, insomma, che ormai... e ogni volta che arrivavo al traguardo di qualche gara, con molta calma rispetto ai tuoi ritmi, andavo a vedere le premiazioni, mezza di Crema e vince Eliana Patelli, mezza di Bergman e Eliana Patelli, Sarni con l'over Eliana Patelli, Cremona, Crema, Verona, insomma da tutte le parti trovavo il tuo nome da qualche parte. Hai corso tanto e anche vinto tanto. Sì, ho corso tanto e vinto tanto e spero di vincere anche in futuro. E sì, sono una competitiva nella vita. E forse è un aspetto, non perché sei in minoranza, che riguarda un po' tutte le donne. Fondamentalmente amiamo vincere nella vita, in tutto ciò che facciamo, e nel nostro piccolo ognuna al proprio passo, nella propria attività, cerca di vincere, di arrivare prima là davanti. Stavi raccontando prima che non stai tanto bene, cos'è successo? Poco tempo fa mi sono fatta male, e quando mi faccio male bene, ho un edema osseo al tibiale sinistro, riscontrato esattamente 2 settimane fa, dettato dall'allenamento e dallo stress. Purtroppo noi atleti, chi corre e si impegna tanto, purtroppo la corsa è tanto bella, ma veramente distruttiva per il nostro corpo. Fa parte del gioco, è un gioco doloroso in questo caso, ma dopo 2 giorni di pianti ci si rimette in moto e comunque si trovano delle soluzioni e delle azioni. E qual è il tuo allenamento alternativo? Nuoti, vai in bici? Vista la situazione adesso, le piscine sono chiuse, quindi non mi fanno nuotare, quindi però fortunatamente sono attrezzata, visto gli svariati infortuni, quindi a casa ho una bici che mi sostiene tutti i giorni, quindi doppio allenamento in bicicletta mattina e sera e tanti esercizi di core, stabilità, quindi tutto quello che può aiutare il mio corpo a, fra un mese spero, riprendere e ripartire a tutta forza. Ovvio che la corsa è un altro sport, cioè dovrei pedalare 7 ore al giorno per avere lo stesso sforzo, però il fatto già che si suda e che ci si muove, lo sapete benissimo anche voi, ti fa stare un po' meglio. Ecco, dopo quella lunga sequenza di gare che raccontavo prima, anche lì è arrivato poi un infortunio abbastanza... Una serie di infortuni, perché secondo me quando tu chiedi tanto al tuo corpo e sei pulita, lo voglio dire a grande voce, il tuo corpo in qualche modo ti richiede, ti dice alte, fermati, perché siamo arrivati al limite. Quindi il tuo corpo un po' di sfortune, è un cane che si morde la coda, no? Quindi un infortunio, poi ne arriva un altro, fin quando tu sei per forza obbligata a fermarti e prenderti cura e volerti bene, perché diventiamo un po' delle macchine e ci dimentichiamo di essere uomini o donne in questo caso. Invece a volte bisogna anche dare il tempo al nostro corpo di recuperare delle prestazioni importanti. Ho corso forte nel 2015, personale in maratona, personale in mezza, personale 10, e poi iniziamo con una microfrattura all'ischio, tanti piccole, però io andavo avanti e non mi fermavo mai, perché la fame di vincere, la fame di arrivare là davanti. E come si riparte anche psicologicamente dopo un infortunio così? Adesso sei proprio in questo momento, lo stai rivivendo, per allora adesso ho imparato, credimi che è stato veramente importante, è stato durissimo, sono stati 3 anni dove non capivo come dovevo andare a sbattere, perché mi allenavo tipo 6 ore in bicicletta, facevo qualsiasi cosa e lì peggioravo, perché il tuo corpo ha bisogno di essere disinfiammato e fermarsi, la testa, non poter muoversi, non poter respirare l'aria al di fuori di una stanza e sudare come no. È stato difficile fino a quando a febbraio del 2018 mi dichiarano una microfrattura al femore e io ho detto, ma io mi sto odiando. E lì ho detto, alt, stop, le scarpe le lasci lì. Okay. Reset. Prima di tutto tu sei donna e non sei solamente atleta e devi staccare proprio, devi avere proprio la capacità, devi essere forte di testa. E come sempre, come nel nostro sport di resistenza, la testa vince su tutto. Da quanti anni è che corri? Cioè non sono nata, ho iniziato a 30 anni, quindi 10 anni fa, nel 2008, l'incontro fatidico con avevo iniziato a correre per la mia storia personale, ma così come tutti gli amatori, noi anche come una donna che ha bisogno di respirare, di sentirsi viva, e correvo, e poi incontro ad un aperitivo Migidio Burifa, che è grande atleta della nazionale, e gli dico: ma io vorrei fare una maratona. Forse presi un po' dal bicchiere del vino dell'aperitivo, mi è venuta questa pazzia, mi fa: guarda, devo vederti un po' correre, come vai, se devi camminare, correre, sai, come le prime tabelle. Quando mi ha visto correre la prima volta, mi fa: no, tu devi correre anche seriamente. Dopo 5 mesi vinco la prima maratona nel 2008 a Bergamo, nella mia città. Wow, quindi è iniziata la grande. Avevi un passato da pallavolista, però, se non ricordo male. Esatto, ho iniziato 8 anni e la pallavolo. Qualcosa c'era, insomma, di sportivo. No, allora, partiamo dal presupposto che è una famiglia che io sono laureata in scienze motorie. E mio papà e la mia famiglia è sport dipendente. Mio padre mi ha messo gli sci a tre anni, quindi lo sport si respira a casa Patelli. I geni c'erano. Sì. E poi la pallavolo è diventata veramente quotidianità, per me era tutto. Qualsiasi cosa, ho giocato fino ai 27 anni, a livelli anche abbastanza alti. C'è un aneddoto che ci vuoi ricordare, no? Una fase della tua vita in cui, insomma, la corsa ti ha portato fuori casa, diciamo così. Penso che la mia storia sia l'esempio di come la corsa possa veramente aiutare, indipendentemente poi dal pettorale, delle tante vittorie. Forse anche riguardo alla festa di cui stiamo celebrando l'8 marzo, la festa delle donne, ma per me la corsa è stata, e la consiglio a tutte le donne, ma anche a tutte le persone, per me è stata salvezza, mi ha fatto sentire viva dopo 10 anni di una vita allucinante, di violenze subite dalla persona con cui stavo. Una mattina avevo paura a rimanere in casa e nevicava, vivevo Iseo e non volevo farmi vedere piangere dalle persone che andavano a prendere il pane. E quindi mi sono messa a correre, perché se camminavo non mi vedevano, e lì ho corso per 1 ora e mezza, e più correvo più piangevo, perché è stata la mia psicologa, mi faceva liberare tutto il dolore che io avevo qua alla pancia dello stomaco, e da lì non ho più smesso. Quindi se tu mi chiedi: ma se quel giorno avessi camminato, chi lo sa, però per me è stata la mia salvezza. È stata un po' terapeutica, insomma. Sì, diciamo. Assolutamente. Mi ha dato la forza di rialzare le spalle, perché io vivevo con le spalle abbassate, la testa bassa, invece di rialzarmi, di rendermi ancora felice, di guardare il sole, di guardare in alto, di respirare a pieni polmoni. E cosa possiamo dire all'Eliana che non correva invece? Oggi. Che probabilmente al primo schiaffo, il primo livido, avrei dovuto dire stop. E invece tante volte la paura e di essere giudicata o dire stop subito, questo ad oggi io purtroppo di questo mi do una grande colpa. Però questo ti ha portato a diventare più resiliente? Sì, assolutamente. E quindi anzi di creare una nuova opportunità? Assolutamente, sì, no, per carità, io probabilmente rifarei ancora tutto della mia vita, non mi pento di aver fatto niente, probabilmente di anche essere stata lì. Ovvio che in questo momento avrei gestito le cose in maniera diversa, perché poi bisogna trovarsi nelle situazioni. Però questa vita mi ha poi regalato tante altre situazioni. Ci sono delle immagini, tra l'altro i fotografi sono bravissimi agli arrivi delle gare. Mi fotografo in situazioni dove io, quando arrivo e magari vinco, c'è una foto della mezza maratona di Crema dove io mi ritrovo a fare il personale in quell'anno fatidico 2015, dove io non dovevo essere a quella gara. Io decido la sera prima di andare a Crema a fare quella gara e di ritrovarmi a fare il personale così, sotto l'acqua, e di alzarmi, e mi viene la pelle d'oca se ci penso, e dire: ma cosa questa vita, questa mia seconda vita mi sta regalando? Quindi devo dire anche grazie, probabilmente, perché sono felice. Certo, possiamo dire qual è il tuo personale sulla mezza maratona? 1:15:15, sono un po' lenta rispetto alla maratona. Rispetto alla maratona, diciamo che dovrei lavorare di più sulla velocità, però siamo un po' a tartarughe dentro, insomma. e nel frattempo invece possiamo dire una cosa bella, nel frattempo, cioè, dopo la nota di biasimo del Tribunale Nazionale Antidoping a Saragiomi, l'annullamento del risultato del campionato italiano di maratona a Ravenna del 2019, tu sei vice campionessa italiana di maratona. Sì. Assolutamente. E invece campionessa italiana è master anche, no? Sì, esatto, quella campionessa italiana master. Poi ho preso quest'anno anche quello sulla mezza maratona vinta a Lodi. E sì. E come hai colto la notizia così un po' tardiva, insomma? Grande domanda questa. Allora, le emozioni non te le ridà indietro nessuno, okay. Soprattutto per Martina Facciani, che è diventata e ha vestito la maglia italiana. Quindi sicuramente tagliare quel traguardo e salire sopra quel podio fatto ora non è come in quel giorno. Credo che noi dobbiamo rispettare le regole a 360 gradi. Siamo informati su tutto quello che dobbiamo fare, quindi non ci sono scappatoie. Se tu devi dichiarare qualcosa, cioè io non vado nemmeno dal dentista perché ho paura di queste cose, dobbiamo stare attentissimi, fa parte della nostra, del nostro lavoro, punto. Questa è la mia risposta a tutto quanto. Ma penso. Tu fai un altro lavoro, Eliana, oltre a correre? Sì, assolutamente. Che lavoro fai? Io ho sempre lavorato, adesso lavoro in una società a Bergamo, facciamo servizi per grandi aziende, si chiama Centax Telecom, e è la mamma che mi accoglie perché ho la fortuna, mi danno la possibilità di gestire gli orari lavorativi, quindi non faccio pausa pranzo, lavoro in ufficio e riesco a entrare un attimo prima e uscire un attimo prima per fare il doppio allenamento quotidiano. Quindi beh, sono... non riesci ancora a doppiare, sì. Non in questo periodo purtroppo, sappiamo. Però con la bici sì, sono doppiando comunque. E qual è il tuo settimana tipo di allenamento, insomma, come gestisci? Allora, di solito, visto che le gare di solito sono la domenica o comunque la domenica abbiamo un allenamento diciamo più importante e più lungo, il lunedì giornata di scarico magari con due allenamenti che possono essere di doppia corsa oppure anche utilizzare un altro sport come bici oppure nuoto oppure palestra, ellittica. Martedì sezione di forza che può essere naturale, quindi in palestra a carico naturale oppure utilizzando le salite, cosa che a me pagano tantissimo, quindi sprint in salita piuttosto che variazioni in salita. E dalle tue parti un po' ci sono. No, ma vai. No. Mamma mia, ci sono solo salite. E poi il mercoledì lavoro di velocità, purtroppo la mia odiata pista che mi ha portato a questo infortunio, e comunque lavoro di velocità. Giovedì corsa di recupero, venerdì altro lavoretto. E poi dipende insomma se hai gara oppure no il sabato. Il mio allenatore dice sempre che comunque il riposo fa parte dell'allenamento, no? Perché rigenera i muscoli. Assolutamente. Quindi sì. Quindi tu comunque metti un giorno di riposo? No. Ecco, molto bene. Molto bene. Abbiamo una risposta all'infortunio. No, allora. Una delle tante, quantomeno. Bisogna imparare, assolutamente. È una questione soggettiva e ho imparato a riposare quando ne sento l'esigenza. Cioè, anche quando, per esempio, in tabella c'è un allenamento di ripetute e io mi sento veramente stanca, dico stop. Prima non l'avrei fatto mai. Quindi bisogna assolutamente ascoltarsi. Mi è capitato anche pre-maratona, dove ho fatto il personale, di correre due volte al giorno, il giorno precedente. Quindi è tutto molto soggettivo e bisogna valutare. Ovvio che se vuoi arrivare ad alzare l'asticella, devi riuscire a mixare bene questo. Riposo, ma anche allenarti veramente tanto, perché nella corsa, come negli sport di resistenza, non ti regala niente nessuno. Quindi purtroppo è vero anche che se vuoi ottenere dei risultati devi arrivare un po' al limite e superarlo. Soprattutto ai tuoi livelli, diciamo. Sì. Qual è la gara che ami particolarmente in Italia, diciamo? Ah, mamma mia, ce ne sono tantissime. Sarnico-Lover è una di quelle che io ho amato perché è uno spettacolo. È una gara, diciamo, non tradizionale, perché sono 26 km da Sarnico a Lover con un panorama bellissimo. Ecco, è un panorama bellissimo riservato a noi runner. Cioè, corriamo per una strada tutta nostra con un lago, tra l'altro la sponda del lago di Iseo meno battuta, ma è uno spettacolo. C'è una partenza fantastica, Gianni Poli è stato bravissimo a trovare questa località e location, perché è location dei suoi allenamenti, perché se voi sapete anche la cortina d'Obbiaco, lui faceva degli allenamenti in linea. Per ovviamente rendere meno monotoni i chilometri, e quindi bravo, bravissimo, stupenda. Quante volte l'hai vinta? Tre, ok. Sì, tre volte. Beh, per ora basta, insomma. Ah. No, altra gara bellissima che mi vede un po' regina, Marcia Longa Running, la adoro, perché un po' rispecchia le strade della famosa Marcia Longa Running, Marcia Longaschi, ed è bellissima in questa valle, che tra l'altro è stata disastrata recentemente però è fantastica, anche quella strada asfaltata su una pista ciclabile, fantastica, e l'arrivo a Cavalese dopo 21 chilometri devi fare 4 chilometri di salita spettacolari. Beh, bellissimo, sì. E diciamo, qual è il tuo sogno da realizzare nei prossimi mesi? Adesso è a parte il riposo. Allora, l'obiettivo è, sono ripartita lo scorso anno a tutti gli effetti, perché questo secondo me è un piccolo stop, però ho avuto diciamo un anno e mezzo di continuità e quindi questo mi rende felice, ovvio che non potevo immaginare che da qua a X anni non ci sarebbe più stato un infortunio, quindi no, ci stava bene, me lo porta a casa, bisogna stare attenti. L'obiettivo è di riprovare a correre una maratona a certi livelli. La maratona che ho fatto a Ravenna è stata preparata con due lunghi, ci abbiamo provato, è un primo passo perché è un po' come quando non sci da tanto tempo. Sarò ancora capace? Cosa vuol dire correre 40 km? Erano 5 anni che non facevo 40 km, quindi è stata una bella sfida per me stessa. Si è messa un po' in gioco, diciamo. Sì, sì, infatti io l'ho affrontata completamente libera da... Ho fatto due lunghi, un lungo da 30 km, un lungo da 32, basta, tutto qua. Ho detto vado e mi ascolto. E infatti a metà gara, quando ero lì con la seconda, con Martina... A un certo punto ho detto, Alta Eliana, tu devi arrivare in fondo, non metterti perché rischi, non sai quello di che saltare, può avvenire. Sì. Non mi è mai capitato di saltare o di avere la crisi del trentesimo, però chi lo sa. E invece in chiusura non ti va di andare al passatore con Ivana? In bicicletta? Ti puoi seguire? Volentieri. Ti sto cercando una persona, tra l'altro, che mi segue in bicicletta. Guarda, ci possiamo. Facciamo l'annuncio. Però lo sai che... È lì. No, non è lì. Ah, no. Non è lì. Probabilmente sarà quando mi passerà questa mania di trovare ancora il tempo in maratona. Ci sarà il passatore, perché secondo me è un'esperienza bellissima da matti. Perché secondo me è da matti. Sì. Cioè, se io penso agli allenamenti che devo fare io per preparare una 42, immagino per come sono fatta io, che sono severissima con me stessa, preparare una 100. Faccio guardare la mia faccia. Scusa, poi no, mi suona strano, hai detto con i, cioè solo Ivana, anche tu la devi fare. Sì, Lorenzi non verrà mai. Grazie mille Elena Patelli, a presto. Grazie a voi, grazie per l'invito. E grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Noi anche per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domenica prossima, sempre alle 6.30 e 16.15, sperando di avere notizie migliori sull'emergenza virus e anche per il calendario delle gare. Buona giornata. Buona domenica. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.